Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Oggi siamo in compagnia di Alessandro Bertante, ora in libreria con Estate crudele, un libro che è pubblicato da Rizzoli. Avevamo già ospitato in passato Alessandro Bertante per altri libri, uno per tutti, Nina dei lupi, che in quel caso invece era stato pubblicato da Marsilio. E ci sono delle affinità con questo nuovo romanzo, delle affinità semplicemente per il nome del protagonista. Anche questa volta il protagonista del romanzo si chiama Alessio Slaviero ed è un nome che ritorna spesso nei libri di Bertante, anche se non indica mai lo stesso personaggio, cioè le persone cambiano ma il nome rimane identico. Come mai, Alessandro, questa scelta? Ma allora, fin dal mio primissimo romanzo, che si chiamava Malavida, che uscì nel 2000, il protagonista era Alessio Slaviero e funge un po' da mio alter ego, ecco, insomma, è quasi sempre, infatti ha una fisicità molto simile alla mia, eccetera, quindi questo è, diciamo, una dinamica abbastanza comune in letteratura che io uso anche per comodità, perché quando devi spiegare a un personaggio si ha sempre le stesse caratteristiche, tratti somatici e magari anche delle caratteristiche, diciamo, più psicologiche, comportamentali, la cosa viene più facile. In questo caso è vero che i due personaggi, quello di Estate crudele e Nina dei lupi, apparentemente non sono la stessa persona, ma in realtà la sono. Ah, io non lo dico, però non lo esplicito, io non lo però. Esplicito e non lo dico, però perché mentre nell'ultima orda c'era comunque un legame, avevi già annunciato la nascita di questo nuovo romanzo. Sì, e poi si assomigliano molto il personaggio di Estate crudele a quello della orda, certo. Invece però volevo considerare un po' Estate crudele come un prequel di Nina dei lupi, ovvero che faceva Alessio Slaviero prima di andare a ripararsi in montagna, ed è lui, ovviamente, però non do nessun tipo di coordinata, mm-hmm. E quindi la lascio un po' alla fantasia del lettore. Uno creda un po' quello che vuole. In questo romanzo Estate crudele, Alessio Slaviero, appunto il protagonista, diciamo, non è un uomo positivo, intorno diciamo ai 40 anni, lui fa l'antropologo, però di fatto è diventato uno spacciatore di droga e soprattutto ha, come dire, un atteggiamento pessimista nei confronti della vita e quasi anche di odio nei confronti di chi lo circonda. Sì, poi si scopre il perché anche, nel senso ci sono delle motivazioni molto serie di questo suo odio, di questo suo anche di questa sua caduta. Estate crudele è la storia di una caduta, la caduta del protagonista Alessio Slaviero negli inferi di quest'estate appunto del 2003 torrida che tutti ricordano. Però ci sono delle cause ben precise che uno scopre leggendo nel libro. La caduta però del protagonista vuole riflettersi anche in una sorta di caduta generazionale che riguarda tutti quelli che fanno parte appunto della mia generazione, cioè che non hanno mai trovato bene un ruolo nel mondo, perché sono vissuti ancora con un'impostazione novecentesca, sono cresciuti con un'impostazione novecentesca e quindi con un grosso retaggio ideologico, con un'idea o di valori, di teoria anche, che poi però hanno visto completamente sfumarsi con l'arrivo del nuovo secolo, e quindi si trovano a metà strada, non sono così giovani da aver resettato tutto e non sono abbastanza vecchi da avere vissuto quella stagione, e inoltre noi siamo, ed è indubbio questo, la prima generazione che è più povera dei propri padri, e quindi la generazione a cui ti riferisci è quella dei quarantenni più o meno. Sì, e quelle dopo sono più povere di noi e quelle saranno purtroppo più povere delle nostre. Noi abbiamo vissuto la nostra giovinezza negli anni 80, che in qualche modo ci hanno influenzato, perché erano gli anni in cui tutto sembrava possibile, la borsa andava bene, l'economia andava bene, tutto ci sembrava possibile. Probabilmente anche per Alessio Slaviero tutto era sembrato possibile e poi invece si è scontrato con la realtà. Sì, e poi guarda, questa cosa che mi dici la pensavo mentre parcheggiavo qua, perché io sono cresciuto a 100 metri da questi studios, sono cresciuto in Piazzale Lotto, quindi, e negli anni 80 proprio. Gli anni 80 sono l'ultimo grande decennio di espansione, e anche l'ultima grande, se ci pensate, l'ultima grande immaginario legato a Milano è quello della Milano da bere, che può essere posticcio quanto vuole, può essere falso, però è l'ultima grande narrazione di Milano. Furono però fondamentalmente degli anni ingannatori, perché questa espansione poi si rivelò fondata su delle basi anche economiche completamente fallaci, e quindi il debito pubblico e via dicendo, eccetera. Non è questo il compito mio di scrittore di analizzare appunto le cause economiche poi di quello che ha portato di quello poi, che poi è successo, però sicuramente sono stati un decennio formidabile, perché i veri cambiamenti sono arrivati proprio strutturali anche dell'immaginario negli anni Ottanta, ma anche degli anni ingannatori. Ricordiamoci che nella narrazione di questi anni Ottanta, che ci si ricordano le feste, la moda, il fashion, ci si dimentica sempre di che ci fu una tragedia generazionale legata all'eroina che non ha praticamente una narrazione, cioè è stata completamente rimossa ed è purtroppo è stato un altro retaggio generazionale che oggi noi appunto ci portiamo almeno nel nostro immaginario. Tu prima citavi Milano e non è un caso, perché questo romanzo Estate crudele è Milano, l'abbiamo detto, l'estate del 2003, l'estate torrida in tutta Italia ma anche a Milano del 2003, e geograficamente questa storia si muove intorno a due vie del nord Milano, via Padova e viale Monza. Via Padova, forse insomma anche nel resto d'Italia ve la ricorderete, perché ci furono gli scontri interrazziali, perché è una via abitata moltissimo da stranieri, da immigrati. Perché l'hai voluta ambientare fra quelle vie? Innanzitutto perché le conosco molto bene. Io nel 2003 abitavo lì e abitavo in un quartiere specifico che non è viale Padova, non è via Padova, sono proprio le vie dietro viale Monza per andare verso via Padova. Ma faccio questa distinzione perché poi c'è un cambiamento proprio sociale a ogni via, perché in una via magari ci sono gli arabi, in una via cinesi, in una via ci sono i sudamericani e via dicendo. E quelle vie sono molto caratterizzate anche a livello culturale, sono molto molto ricche anche secondo me tuttora, anche se è stato molto dal 2003 cambiato, è stato molto tranquillizzato per certi versi il quartiere, anche se giusto l'altro ieri ero lì ma mi parlavano di una retata incredibile in un palazzo in via Crespi, quindi questa cosa mi conforta però... ecco. Sono molto ricche perché ci sono le nuove generazioni che sono più voraci di noi italiani eccetera, però hanno anche un sacco di contraddizioni e quindi mi sembra un quartiere molto adatto per ambientarci un romanzo. Una storia appunto, dicevamo, di decadenza. Alessio vive in questa zona, in questo quartiere, fa lo spacciatore, non consuma droga, però ha un atteggiamento proprio di disprezzo quasi nei confronti degli altri, non solo degli stranieri ma anche degli italiani. Lui si sente al di sopra degli altri. Lui si sente un cavaliere, lui si sente l'ultimo grande rappresentante di una razza di guerrieri che non hanno più guerre da combattere. Lui si sente altero nei confronti del suo presente, che disprezza, sì è vero, disprezza gli stranieri, ma in modo quasi folcloristico, il suo odio vero nei confronti dei suoi patrioti. E quindi le scene più feroci sono appunto nella descrizione di un certo tipo di italiano, ad esempio quello che viene dalla provincia per andare a prostitute o sì, a travestiti eccetera. E perché c'è questo disprezzo? Perché lui si sente parte di un'epoca di gloria finita e disprezza il presente, quindi disprezza le persone in quanto protagonisti di questo presente che lui rifiuta perché l'ha rifiutato, il presente ha rifiutato lui. Poi ovviamente leggendo il romanzo si capisce perché. E poi soprattutto lui è un... Si definisce un intellettuale, è un laureato, dottorato anzi, ha fatto un dottorato in antropologia culturale e anche lì per questioni legate proprio alla mia generazione non è riuscito poi a fare carriera universitaria. Devo dire che non è autobiografico questo, almeno perché io non ho mai tentato perlomeno di fare carriera universitaria, però molti e amici... non sei uno spacciatore di droghe, no, insomma. Sì, anche se in gioventù diciamo che ho avuto delle esperienze bene, simili, ormai è passata come, diciamo. Sai, come Obama, uno dice ma sì a 20 anni, però dico invece conosco molti miei coetanei che hanno tentato di diventare anche brillantissimi, che non sono riusciti a fare carriera universitaria perché l'università è messa come messa, insomma. Però questo strideva ancora di più e infatti il suo retaggio culturale emerge nelle scene più sporche, perché lui si immagina, guardando questa realtà deprivata, bassa eccetera, si immagina invece visioni eccezionali che derivano dai suoi studi, quindi si immagina cavalieri, unni, tartari, cavalieri catafratti medievali, e quindi questo dà una grande forza visionaria, ecco, al tempo. Abbiamo detto che Alessio disprezza appunto gli altri connazionali, le persone, però ha quasi un rapporto di amicizia con un trans brasiliano. Che tipo di rapporto c'è fra loro? Allora, in realtà è un rapporto, lui è disperato, è disperato e alla disperata ricerca di affetto, quindi è uno dei suoi pochi affetti, anzi forse l'unico, quindi è un rapporto quasi di amore, se potesse farlo, ma lui è incapace di farlo, quindi è quasi un'ancora di salvezza, ecco. È il suo vicino di casa, peraltro, quindi... Infatti ci sono delle scene che poi naturalmente leggendo il libro si potranno apprezzare. L'approccio con la scrittura in questo libro, hai usato una scrittura piuttosto netta, ci sono descrizioni di risse, di scene anche violente, del degrado anche fisico delle zone del quartiere o delle persone. Come ti sei preparato anche mentalmente e spiritualmente a scrivere queste cose? A me interessava andare in un realismo molto poco verosimile. Non mi interessa il verosimile, perché il verosimile è qualcosa di in qualche modo già domesticato. A me interessa un realismo dell'eccesso, nel quale poi gli inserti che vuoi alti, che tu vuoi mettere alti, sono ancora più potenti, perché l'afflatto lirico ne aumenta se parti da una bassezza e da una crudezza radicali. Non mi interessa però il verosimile, perché secondo me il verosimile è un realismo addomesticato. Io voglio che il lettore, quando legga, venga in qualche modo colpito, ma che comunque riconosca le scene, riconosca come sue prossime. Mi riferisco anche a quello che dice Walter City nel suo saggio, in cui mi trovo... Ho pensato la stessa cosa in questo Mi trovo momento. Molto vicino alla sua idea di realismo. Io credo sia l'unico approccio possibile si adesso. Si prende spunto da cronaca, da fatti veri, della vita propria, personali, per crearne comunque qualcosa di romanzesco. Sì, e poi che però è un realismo che taglia le scene plausibili e arriva a un nocciolo di verità che a volte è quasi illeggibile, cioè è così forte, così feroce, che però è il vero realismo, secondo me. Non è il realismo della consuetudine, ecco. Se tu dovessi dare una definizione a questo romanzo, come lo definiresti? Realista apocalittico? No, lo definirei un romanzo metropolitano. Ecco, un romanzo metropolitano mi sembra la cosa più corretta. C'è molta metropoli, c'è molta Milano, sì, naturalmente. Tanta. Grazie ad Alessandro Bertante, autore di Estate crudele, pubblicato da Rizzoli. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Mi trovate anche su Twitter come Ale Teddina. Buona lettura da Alessandra Tedesco.